trovati, ben trovati su Radio Wombat, e con Soul Time, la trasmissione dedicata alla musica soul. E ben trovati nello specifico a questa seconda puntata speciale dedicata al Wigan Casino, locale storico appunto di Wigan, che è stato aperto dal 1973 al 1981. Per chi ci ha ascoltato nella puntata precedente, il Wigan Casino era molto molto famoso per i dischi che venivano suonati. Infatti anche in questa seconda puntata parlerò ancora meno del solito e farò un vero e proprio DJ set con i dischi che andavano al Wigan Casino tra il 73 e l'81 appunto. Un personaggio interessante del Wigan Casino è stato sicuramente Keb Roberts, un DJ che ha affiancato nel tempo il grande Russ Winstley. Kevin Roberts era in contatto con un personaggio, un franco marocchino, decisamente interessante, perché era per Kevin Roberts il suo cacciatore di dischi, in quanto aveva uno stretto rapporto con le case discografiche e soprattutto i magazzini negli Stati Uniti, dove andava a scovare vere e proprie gemme sconosciute sia in Inghilterra che negli Stati Uniti. Simon Sussan un bel giorno arrivò in Inghilterra e specificatamente proprio a Wigan con un pezzo che poi rimarrà alla storia e che abbiamo già ascoltato qui a Soul Time, un pezzo di cui si hanno soltanto due copie, due esistenti, e che recentemente una delle due è stata venduta a circa 20.000 euro. Naturalmente questo brano è il famosissimo Do I Love You di Frank Wilson. Io non vi faccio ascoltare l'originale perché non ce l'ho, però ci ascoltiamo questa ristampa di questo brano fantastico, Frank Wilson Do I Love You, che all'epoca era possibile ascoltare soltanto al Wigan Casino, soltanto da una delle due copie esistenti all'epoca. Quindi ci ascoltiamo Frank Wilson con Do I Love You. Do I? questo era Frank Wilson con Do I Love You, con questo pezzone assoluto. Lo abbiamo già ascoltato qui a Soul Time, ma parlando di Wigan Casino era impossibile non ripassarlo. Quindi si parlava di grandi DJ che c'erano al Wigan Casino. Primo su tutti è stato tra l'altro il fondatore, insieme al proprietario, era proprio il DJ storico Russ Winsley, che appunto con il proprietario Mike Walker in realtà iniziò l'avventura del Wigan Casino per una scommessa in una notte di settembre del 1973, pensando che sarebbero durati al massimo fino a Natale. Invece dopo un anno erano decisamente sorpresi che l'avventura stesse continuando e il Wigan Casino stesse diventando sempre più importante. Winsley decise, insieme ai suoi collaboratori e i proprietari, di costruire un gruppo di giovani DJ talentuosi che avrebbero però aiutato, nonostante diciamo una relativa inesperienza, a sviluppare un suono e uno stile unico. Infatti questa scommessa fu decisamente vinta. Infatti si ascoltavano sicuramente al Wigan tantissimi pezzi già conosciuti, però sicuramente la caratteristica che è rimasta nella storia del Wigan Casino è proprio quella che presso il Wigan Casino appunto si potevano ascoltare tantissime rarità, e l'aneddoto famoso dei dischi coperti con l'etichetta coperta per non far riconoscere il brano, o addirittura con l'etichetta con il nome del brano e l'autore addirittura falsi, trovò proprio l'apoteosi proprio al Wigan Casino. Quindi bisogna ricordare che i dischi al Wigan che venivano suonati appunto erano molto rari. Al Golden Torch c'erano anche, con cui c'è stato per un breve periodo una piccola rivalità, però sicuramente il Wigan li superava di gran lunga. Appunto, come dicevo prima, i dischi venivano coperti proprio per impedire a chi andava in cerca, chi voleva scovare le tracce, lui era impossibilitato. Infatti molti brani che si potevano ascoltare al Wigan li potevi ascoltare soltanto al Wigan. Quindi direi di iniziare questo DJ set. È totalmente, come al solito, improvvisata la puntata. Inizio il DJ set, se mi viene in mente poi qualche altro aneddoto interromperò la selezione da vinile e vi racconterò qualche altra chiacchiera. Quindi iniziamo da un cantante non sconosciuto per i Wigan Casino, ma per una hit assoluta rimasta nella storia. Ci ascoltiamo Polanka con I Can't Help Loving You. Iniziamo con Polanka. you that you're no good. I'm where it's at, and when you feel that you're misunderstood, misunderstood, I'm where it's at, girl, now, where it's at. And when everything seems to go wrong, just ring and leave my telephone. I'm where it's at, take me back, come on and tell where it's at. You may When the moon comes out in the evil night, don't need no switch to dim the lights. When a guy's been lonely all his life, he don't need no money. That you're my baby, darling, darling, darling, darling, yeah. And this life goes on, and you're with me. I don't need no one to make me see. And as each day comes and time goes by, I don't need no watch to realize that I. Eccoci in studio qui su Radio Wombat con Soul Time. Quindi parlavamo nella prima parte di questa puntata dei DJ storici del Wigan Casino, che hanno ovviamente con la loro musica contribuito a rendere unico questo locale. Come invece nella puntata precedente vi parlavo come il Wigan Casino, oltre ai DJ, è rimasto nella storia anche per la grande, grande caratteristica che aveva, quella dei ballerini. Addirittura si diceva che ci fossero tra i migliori ballerini al mondo. Quindi vi voglio raccontare un po' di aneddoti raccontati proprio direttamente dai DJ del Wigan riguardo quello che era appunto l'aspetto danzante delle all-nighter. Partiamo da quello che disse Kev Roberts, il DJ di cui si parlava prima, famoso per aver portato al Wigan Do I Love You di Frank Wilson. Kev Roberts era il terzo DJ, fondamentalmente erano in tre ad aver portato avanti gli all-nighter lungo gli anni al Wigan Casino, con Russ Winsley, Ian Fishwick e appunto Kev Roberts. Kev Roberts soltanto durante la seconda settimana di all-nighter venne fuori che in realtà aveva soltanto 16 anni. In questo periodo iniziale egli si rese conto di quanto fosse fondamentale e importante la danza al Wigan Casino e tutto quello che poi ha ispirato e di cui si rese conto in realtà soltanto dopo. Racconta che ogni notte che passava era sempre più grande e arrivò a suonare davanti a 1500 persone e assistette ad un episodio di stage diving mentre suonava un pezzo di Sandra Phillips chiamato World Without Sun. All'improvviso vide questo ragazzo che saltò dalla balconata superiore al parquet e si tuffò sul dance floor affollato. Rimasero ovviamente tutti a bocca aperta, perché all'epoca lo stage diving, insomma, non era propriamente qualcosa di comune nelle all-nighter. Altra caratteristica e altro episodio che ci racconta in questo caso Russ Winsley è quello dell'applauso alla fine di un pezzo. Russ Winsley in realtà era già un DJ abbastanza affermato e conosciuto, però notò che a Wigan Casino al Wigan Casino alla fine di un pezzo che era piaciuto molto al pubblico partiva spontaneamente un applauso. Ricorda che quando partì per la prima volta si spaventò perché gli sembrava quasi un colpo di mitragliatrice, lo definisce così, perché appunto non si era molto abituati ad avere un applauso dopo aver messo un pezzo. E racconta anche quanto poteva essere spietato il dance floor del Wigan. Racconta appunto che ti dava una grande spinta quello che era il pubblico danzante del Wigan, però viceversa se suonavi una traccia che non garbava, con la stessa rapidità con cui il dance floor si riempiva, allo stesso modo si svuotava in un nanosecondo, e quindi per lui fu una scuola fondamentale per capire cosa selezionare durante le all-nighter. Quindi altre due chiacchiere, due aneddoti ve l'ho raccontati. Proseguiamo con il DJ set e ci andiamo ad ascoltare questo pezzo di Don Ray che si intitola Burn a Loser. Well, my baby just said she didn't need me. She said her new love is so much better. Why do things always happen to me? Why was I born a loser? Why must I get up each and every day, hey, and break my back for such a little pay, hey? Why does life have to be this way for me? Born a loser, oh yeah. Why was I born good looking? Why was I born a winner? I had rather not be born at all than to be born a loser. kisses that burned have suddenly turned as cold as a gray December. It suddenly seems that yesterday's dreams are something you can't remember. You never were at a loss for words before, but now you don't seem to say much anymore. You'll not draw on another thing. Another thing. You'll not draw on someone new. I can see you're getting that restless feeling. You couldn't disguise that look in your eyes. Oh baby, it's too revealing. You're thinking about a change of scenery. You're making some plans without informing me. You've got your mind on other things. Another thing. You've got your mind on someone new. dog, pity me. Even though you think you're sure, pity me, dog, pity me. Spiral Staircase con More Today Than Yesterday. Chiudiamo questa puntata di Soul Time, la seconda puntata conclusiva dedicata speciale al Wigan Casino. Io vi saluto e ci sentiamo mercoledì prossimo, sempre alle 19, con Soul Time su Radio Wombat. Vi ricordo che potete anche ascoltare le registrazioni, che ormai si chiamano podcast, sempre sul sito di Radio Wombat Firenze. Vi saluto di nuovo, alla prossima puntata.